Come ti viene in mente di offendere un nero quando è così chiara e indiscutibile la nostra influenza nel modo di vivere dei bianchi? La nostra musica, il nostro modo di vestire, per non parlare del nostro incedere, binoccolato, elegante, che tutti cercano di imitare. Noi abbiamo soprattutto gusto, senso del ritmo, che migliora la qualità della vita. E forse anche per merito nostro è cresciuta la ricchezza di questo paese. Tutte cose delle quali io posso vantarmi quando mi trovo di fronte un ignorante, codardo, bilioso, piccolo, un uomo senza qualità, che non ha fegato. Un pusillanime capace solo di disprezzare quello che non capisce, invece di baciare dove cammina e di dire «Grazie, amico!» E tu dici «Vaffanculo a me!» Se me lo permetti, allora sai io che cosa ti rispondo. «Bacci tu!»